Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. There is no curse in Hilvish, Entish or the tongues of men, for this treachery. Savisarir, Yasir Kabir, Yaqta'u al-widyan yatfi al-niran, wa huwa yukhallis huriyat al-jan, ma'an ya'ishan fi hanan, fi hanan, ma'an ya'ishan fi hanan. فرحي بوليدي يضحك ويلعب فوق حجري فرحي بوليدي لي غالي أكتر من عمري يلعب ويجري في وسط الدار ويدوي علينا كيل في النار يلعب ويجري في وسط الدار ويدوي علينا كيل في النار ونحكي له حكايات حتى يطلع النهار ونحكي له حكايات حتى يطلع النهار حكاية وحكاية سمعنا من البارح لليوم شحال حكاية وحكاية سمعنا من البارح لليوم وروح يا زمان واجي يا زمان وتفكر يا إنسان وروح يا زمان واجي يا زمان وتفكر يا إنسان كل حكاية ليها حكاية ليها معنى وليها زمان كل حكاية ليها حكاية ليها معنى وليها زمان Petit enfant deviendra grand il franchira les océans إنسان ما كاين قد الصفا والخير والإحسان ما تفتح باب حتى تغلق باب ولكل سؤال جواب ما تفتح باب حتى تغلق باب ولكل سؤال جواب حتى تلقى طريق الصواب حتى تلقى طريق الصواب حتى تلقى طريق الصواب حتى تلقى طريق الصواب حكاية وحكاية سمعنا من البارح لليوم شحال حكاية وحكاية سمعنا من البارح لليوم وروح يا زمان واجي يا زمان وتفكر يا إنسان وروح يا زمان واجي يا زمان وتفكر يا إنسان كل حكاية ليها حكاية ليها معنى وليها زمان كل حكاية ليها حكاية ليها معنى وليها زمان صبي صغير يصير كبير يقطع الوديان يطفي النيران وهو يخلص حرية الجان ما عن يعيشان بحنان Marzo scorso dovevo tenere a Coira, presso la società Andreas da Hinden, una conferenza sull'arte di scrivere romanzi polizieschi. Vi arrivai in treno, che già annottava, nuvole basse e un nevischio deprimente, e gelo dappertutto. La conferenza si tenne nella sala dell'Unione Commercianti. Il pubblico era piuttosto scarso, dato che quella stessa sera Emil Steiger parlava nell'aula magna del liceo sull'ultimo Goethe. Non ero in vena quella sera. Neanche gli spettatori lo erano del resto, e parecchi del luogo lasciarono la sala prima che la conferenza fosse finita. Questo era l'incipit della Promessa di Friedrich Dürrenmatt. Apertura di questa quarta parte di Eclettica, tutta l'insegna della lingua francese, anzi fra l'altro il terzo brano anche manterrà un certo legame con la Francia. Comunque, proprio per mettere in risalto la mia scarsa conoscenza della lingua, partiamo con il primo dei due brani che vi siete ascoltati. È estratto dalla colonna sonora di un film dello stesso regista francese, ma poi cresciuto in Guinea, che ha anche realizzato i due lungometraggi di Kirikou. Questo nuovo film è quello dedicato ad Azzurre e Asmar. La musica è di Gabriel Yared, di origine libanese ma cresciuto artisticamente, oltre che diciamo naturalmente a Parigi, non saprei come altrimenti dire, e accompagnato nel brano in questione dalla voce di una vecchia conoscenza di Eclettica, ovvero sia della cantante algerina ma anche lei ormai parigina, Souad Massi. E poi abbiamo proseguito con Thomas Bellom. Forse vi ricordate il duo Amor Bellom Duo, che erano innamorati di certe atmosfere del sud degli Stati Uniti, tanto di riuscire a coronare un sogno ad un certo punto della loro carriera, cioè quello di un tête-à-tête con i Calexico. Ora esce con un album la cui etichetta è francese, impronunciabile per me, e quindi non ve la dico, un album uscito proprio in questi giorni dal titolo No Borders, dal quale noi ci siamo ascoltati la traccia di apertura, Hey Man. Non è che mi stracci le vesti per questo disco. E Giulio Caperdoni che prosegue nella quarta parte di Eclettica con un disco a cavallo fra Venezia e Francia. Già avete capito, sto parlando dei Grimoon, uno dei dischi più trasmessi di questo inizio di 2007. Oggi ci ascoltiamo Mocha. Thank you. Abbiamo definitivamente abbandonato la Francia, chissà mai se ci ritorneremo in questa ultima parte di Eclettica della settimana numero 17. Ci siamo trasferiti, in effetti, a Nashville, da cui proviene Courtney Tidwell, una famiglia di musicisti. Dall'album Don't Let Stars Keep Us Tangled Up ci siamo ascoltati il brano dal titolo Missing Link. E visto che negli Stati Uniti ci troviamo bene per una serie di brani che in questo periodo stanno caratterizzando le playlist di Eclettica, direi di rimanerci, anche se l'etichetta in questione è la tedesca Tom Lab. Sto parlando dei The Blow, che provengono da Portland, Oregon, grande città dal punto di vista musicale. Dall'album Paper Television ci ascoltiamo Parenthesis. Jusqu'à mesurer le prix Siamo quasi arrivati alla chiusura della settimana di Eclettica, visto che siamo vicini alla chiusura della quarta parte di Eclettica. Vi avevo detto che forse saremmo tornati in Francia, l'abbiamo fatto con il duo degli Holden che ci siamo appena sentiti, e io vi saluto invece sulle note di un brano che spero non vi stufi, tanto lo trasmetto. Sono gli Ono Omai, I Love You All The Time. Alla prossima! So divine, whoa.